Non so se veramente serve un'altra canzone d'amore. Ho chiuso il ciclo di una vita, è l'ora di ricominciare. Mi sto lasciando lentamente impazzire. Lascio che la mia mente vaghi, senza sapere dove andrà a finire. La facoltà dello stupore. Cerco di trovare il senso del reale, anche se mi fa male. Vibrare insieme in sincronia, che sia questo l'amore. Mi sento un'anima vibrante, e il cielo cambia il suo colore. Sto cercando le assonanze che mi fanno risuonare. Mi ricordo dei tuoi occhi puri, della loro innocenza e il tuo sorriso di sorpresa mentre scoprivi l'amore. E quella volta che di sera, entrando in ascensore, hai sollevato la maglietta e mi hai lasciato sfiorare il cuore. Ti sento respirare e riconosco il tuo odore. Abbracciandoti capisco il tuo umore. Anche questo è amore. In tutta questa meraviglia, che non ci fermiamo mai a godere, e che invece dovremmo nutrire con la facoltà dello stupore. Possiamo che abbandonarci alle onde del destino, camminando mano nella mano, che l'orizzonte è vicino. Ho bisogno di silenzio in questo gran rumore. Ho bisogno di capire la natura dell'amore.